Benvenuti, benvenuti alla puntata di oggi di Stampa e Vangelo. Ringrazio per le preghiere di molti che hanno chiesto un miglioramento della mia salute e oggi posso dirvi che la mattinata è buona, sono sfebbrato, quindi questa è già un buon notizio. Rimangono un po' di effetti collaterali ancora, diciamo, in piedi. In compenso mi si è aggravata la bambina, ci stiamo passando i virus l'uno con l'altro, però insomma almeno io sono in condizioni migliori, non ho più la febbre e questo è, diciamo, una buona notizia. E come mi chiede Antonella Bagno, va meglio? Sì, in effetti va meglio, quindi grazie. Saluto anche Nicola Di Matteo, Paolo Bonaiuto, Massimiliano Esposito, Paolo Ruotolo, Alberto Cerutti, Emanuele Pizzatti, oggi protagonista dell'editoriale del quotidiano La Croce, dedicato a Gianna Gessen, al suo tour in Italia. Saluto Francesca Patuzzi, Marco Rapetti Arrigoni, e in effetti sono migliorato grazie a Paolo Bonaiuto, mi vede meglio. Mi sono svegliato senza febbre stamattina, quindi insomma, fisicamente rimangono un po' di, ripeto, effetti collaterali, ma si va meglio. Ho trasferito la febbre invece alla mia figlia piccola che oggi è rimasta a casa allettata. E vabbè, in famiglia succede, come sapete. Lei l'ha passata a me prima, i disturbi intestinali, io passo a lei la febbre e così. Il volersi bene, comporta anche questo prezzo. Saluto Roberta Gramaccia, Ninnarello, Romana Cordova, La Pongi, Michele Tabboni, Nicola Di Matteo, a cui prometto che farò di tutto per arrivare se stasera non dovesse mai salire la febbre, venire al coordinamento del Popolo della Famiglia di Roma, la riunione di dicembre del Popolo della Famiglia di Roma. Dunque, se dovessi tenere una giornata così da sfebbrato, nonostante il parere del medico che mi ha chiesto di fare 3 giorni di riposo, stasera sarò presente alla riunione del coordinamento. Lucia Tognolo dice: sei un grande uomo, diglielo a chi crede che l'apo sia un ganso. Sono solo grosso, lo ripeto sempre, però attenzione, questo tema dell'apo ganso un pochino mi ha rotto le scatole. Adesso tutti quanti a dire l'apo buono, l'apo qua, l'apo là, secondo me va stigmatizzata quella performance, ma non per l'apo, per spiegare che purtroppo quella dieta, come ho definito, di escort trans, marijuana e cocaina, è una dieta tipica delle classi dirigenti italiane, con l'apo a fare la fotografia, diciamo, di tutto questo, perché essendo più fesso si espone, ma era una grande occasione per riflettere sulle abitudini delle classi dirigenti, e invece ci sono tutti articoli che vogliono giustificare l'apo Elkann, e questo secondo me è un errore grave. Saluto la Sandrini dal Bresciano. Francesca Patuzzi dice: a casa almeno 3 giorni. Ha ragione, è proprio quello che ha detto il medico. Però se stasera non vado al coordinamento del Popolo della Famiglia di Roma, gli amici del PDF di Roma ci rimangono male e dunque trasgredirò il medico se stasera arriverò senza febbre a fine giornata. Dunque, saluto anche Anna Cavallo, Danilo Leonardi, tantissimi sono in diretta. Andiamo a leggere la pagina di Vangelo di oggi. Siamo adesso nel Vangelo di Matteo, come ieri. Siamo nel settimo capitolo del Vangelo di Matteo. Siccome siamo già in tripla cifra, vi chiedo sempre un mi piace e un condividi per far sentire la pagina di Vangelo, la buona notizia del giorno, a più persone possibili. Con un mi piace e un condividi andiamo sulla pagina di chiunque, insomma. La Pongi arriva per dirmi: devi riguardarti, lo so, il medico insiste che devo riguardarmi. Però il coordinamento del popolo della famiglia di Roma è molto numeroso, sono molti dirigenti e penso che sia utile a pochi giorni dal voto referendario andare a incontrarli come facciamo periodicamente e non fare quello che marca visita, diciamo, insomma. D'altronde in battaglia si fa così, non si può stare a dar retta ai medici, insomma, no? Allora, siamo nel Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Io penso davvero, queste parole del Signore, questa pagina del Vangelo, il settimo capitolo del Vangelo di Matteo, è forse la pagina fondamentale del messaggio cristiano. Credo davvero che chi mette in pratica le parole perché le ascolta è saldo davanti alle enormi difficoltà. Chi invece non le mette in pratica, è esposto ai venti. È un'esperienza che si fa sempre quando si esce, diciamo così, dal periodo di concentrazione dell'incontro su Cristo, ci si distrae perché la vita distrae indubbiamente. Sentiamo spesso quell'arrendersi davanti alle difficoltà che è proprio nel non avere la saldezza di chi invece è radicato e dunque anche radicale alcune volte nel profondo valore dell'incontro con Cristo. Flavio Morani dice giustamente, secondo me, dedichiamo la lettura del Vangelo di oggi all'apro e probabilmente questa cosa ha veramente senso. Se sei fuori da quell'incontro, sei esposto alla tempesta. Se sei dentro quell'incontro, anche la tempesta non ti abbatte. Questo elemento, io credo sia un elemento che chi ha avuto esperienze profonde di fede e chi ha avuto esperienze anche di allontanamento dalla fede, e sicuramente il sottoscritto è uno tra questi, può testimoniare. Quindi questa pagina di Vangelo è particolarmente rilevante per l'esperienza di vita di ciascuno di noi. E credo possa essere un motivo per leggerlo tutto il Vangelo di Matteo. Io consiglio sempre il Vangelo di Marco, che ha questi splendidi 85 minuti di lettura, 16 capitoli, piuttosto rapido, che ti avvicina al mondo dell'incontro con Cristo. Nel Vangelo di Matteo troviamo appunto queste pennellate che raccontano esperienza di visita, esperienza di vita. Oggi parliamo di referendum, siamo a 24 ore, domani finisce la campagna referendaria e non possiamo non parlare di com'è andata questa campagna, della ritmica che ha avuto e anche delle notizie che oggi riportiamo sul quotidiano La Croce in particolare, ma ci sono anche su molti altri quotidiani. L'elemento che mi interessa sottolineare di più con voi è in questo momento la spesa per il referendum. Il PD legittimamente fa la sua propaganda. È stato calcolato che l'invio delle lettere a casa che avete ricevuto in questi giorni, oltre alle lettere inviate agli italiani all'estero, sia costato oltre 8 milioni. Se aprite un video su YouTube, se aprite una qualsiasi connessione ormai web, non possono non arrivarvi gli spot in automatico del sì, sempre pagati dal dal PD, perché il comitato Basta un sì ha un bilancio di 1 milione di euro. La domanda che ci stiamo ponendo in queste ore è: chi paga i 10 milioni di euro della propaganda del PD? Ci siamo andati a leggere i bilanci del 2015 del PD per capire quanti soldi ci fossero in cassa, e in cassa ci sono 700 mila euro di avanzo primario del 2015. Allora la domanda è: questi 10 milioni di euro da chi sono pagati? Ora, dobbiamo cercare davvero di capire questi meccanismi, perché vi devo annunciare subito che in termini ufficiali non lo sapremo mai. Perché l'elenco dei donatori a un partito non è mai rivelabile. Dunque non sapremo mai chi effettivamente ha messo i soldi per questa operazione molto massiccia. Però sappiamo, per esempio, che ieri è stato garantito un aumento di 85 euro agli statali. Pochi giorni fa sono stati annunciati aumenti dai 30 ai 50 euro ai pensionati. L'aumento agli statali costa non 10 milioni di euro, costa 5 miliardi di euro. Questo per capirci. Gli statali sono 3 milioni di lavoratori che potrebbero essere determinanti. Agli italiani all'estero sono 4 milioni di italiani. Ora, questo turbinio di quattrini, unito anche alla pressione che è stata esercitata, pensate alla notizia di Romano Prodi. Ieri Romano Prodi ha annunciato il suo sì, è stato per tutta la campagna referendaria a dire che non avrebbe detto se votano sì o no. Adesso Romano Prodi ha detto voto sì. Domenico Mimmo dice dittatura, sanno di perdere. Anch'io penso che tutta questa operatività molto forte di pressioni e di soldi messi in campo per muovere il risultato elettorale sia fonte di un elemento di preoccupazione di Palazzo Chigi. Esther Colani dice 85 euro netti, sì, 85 euro netti. 5 miliardi di euro spesi dal governo, annunciati dal governo nel trimestre 2016-2018. 7 anni, ripeto, 7 anni che la contrattazione era ferma, si sblocca sui giornali del 1° dicembre del 2016, guarda caso a 3 giorni dal voto referendario. 7 anni, eh? Che si trattava su quel contratto. Ora il contratto degli statali viene sbloccato a 3 giorni dal voto referendario. Casualità? Vabbè, non devo neanche rispondere, credo, a questa domanda. Penso e spero che questi meccanismi non incidano sul voto degli italiani. Certo, siamo dentro a un massacro sia mediatico che economico, che di pressioni internazionali. Ed è evidente che questa pressione è derivante dall'idea che dal punto di vista puramente democratico Renzi stava sotto. Ora noi speriamo che abbia ragione Alessandro Cocco, che dice se Prodi vota sì, il no ha già vinto. Questo è il titolo, visto che stiamo sempre facendo una rassegna stampa. L'opinione di Alessandro Cocco, vi comunico che è anche il titolo che ho trovato sul Tempo. Il quotidiano Il Tempo dice con chiarezza: Prodi mette nei guai Renzi, voterò sì. Questa è la titolazione. Saluto Claudia Brignoli, saluto Rosa degli Esposti, saluto Danilo Leonardi. Sicuramente la tempistica di questo aumento contrattuale è scorretta. Comunque, gli 85 euro fanno piacere, questo è chiaro. Bisogna vedere se gli 85 euro muoveranno. Io, da governante, più correttamente, l'accordo l'avrei chiuso la settimana prossima. non a 3 giorni dal voto, perché oggettivamente suona male. Mauro Rotunno dice: il nostro vince. Grazie alla sentenza a favore di Banca Etruria, spieghiamo anche questo, la notizia la trovate in prima pagina come al solito, solo sul quotidiano La Croce, ma nella inchiesta Banca Etruria, quella fatta dal Tribunale di Arezzo, in realtà ci sono molte inchieste Banca Etruria, ma quella fatta dal Tribunale di Arezzo, tutti gli imputati, cioè l'ex presidente del Consiglio di amministrazione, l'ex direttore generale di Banca Etruria e l'attuale direttore centrale di Banca Etruria, sono stati tutti assolti. Quindi questo per farvi capire che il sistema si difende. Claudia Brignoli dice che Renzi ha affermato domenica vinciamo larghi. Loro sono a questo punto sicuri di questa vittoria larga, diciamo così. È chiaro che la battaglia ormai abbiamo la palla di vetro. Aspetteremo 3 giorni e vedremo cosa succede. Quello che dobbiamo fare, in tutta evidenza, è continuare la campagna per il no e anche a spiegare questi aspetti. I milioni di euro spesi dal PD, che non vedremo mai a bilancio, non sapremo mai chi ha pagato. I miliardi di euro spesi dallo Stato per comprare il voto favorevole degli italiani, la macchina del pressing sugli italiani attraverso le lettere e attenzione al voto degli italiani all'estero, perché può essere facilmente manipolato. Io direi che questa deve essere la nostra attenzione in queste giornate. Spiegare questi elementi tecnici come elementi di una preoccupazione oggettiva del Presidente del Consiglio verso un responso che democraticamente invece sarebbe probabilmente orientato da tutt'altra parte. Queste influenze pesantissime di queste ultime ore potrebbero modificare l'esito del voto, ma anche rafforzare quelli come noi che vanno a votare no convintamente contro un governo anche per queste ragioni, perché il populismo di governo assolutamente non è accettabile. Dobbiamo mobilitarci in queste ultime ore per parlare con tutte le persone. Vi segnalo che il mio tentativo su internet, su Twitter, il post che ho fatto l'altro ieri pomeriggio, ha raccolto già 750 voti e ovviamente sono tutti vicini alle nostre posizioni, ma la compattezza dei no è incoraggiante. Oggi nella riunione faremo il coordinamento di Roma, daremo anche altri segnali, altre indicazioni su come procedere con la propaganda in queste ultime ore per il no al referendum. Intanto Gianfranco Amato, anche ieri era a Imola, un grande successo. Anche ieri il Popolo della Famiglia, grazie all'iniziativa di Mirko De Carli, del PDF dell'Emilia Romagna, e tanta gente a sentire Gianfranco Amato al seminario di Imola, anche lì abbiamo parlato di referendum e dunque il Popolo della Famiglia, come dice la Pongi, la nostra Emanuela Pongi Luppi, vota no convintamente e continua a fare attività sul territorio. Appunto con iniziativa al giorno, ieri Imola, oggi di nuovo a Roma, ci saranno altre iniziative dei romani in queste ore per una battaglia che si annuncia campale, su cui poi si innescheranno delle conseguenze e lì sarà molto interessante attendere con intelligenza quelle che saranno le conseguenze del voto, qualsiasi sia l'esito, poi quello che riguarda il popolo e la famiglia, essere pronti a elezioni politiche anticipate che potrebbe arrivare molto presto, soprattutto in caso di vittoria renziana. Saluto Don Massimo Lapponi, saluto Alberto Agus, Carmela Nunziata, Antonio Basile, Carlo Massone, Massimo Zucchi. Vi prego a tutti di fare un mi piace e un condividi sulla vostra pagina. Alberto, sempre va in onda con questa bella trasmissione che si chiama Atlantide, qui su Popolo della Famiglia TV, una trasmissione che invito a seguire, davvero molto molto centrata. Saluto Mario Cambuli. Un mi piace, un condividi sulla vostra pagina per Per questo nostro estremo appello per il no al referendum, domani faremo l'ultima puntata settimanale di Stampa e Vangelo, perché sabato non faremo puntata. Dicevo, non faremo puntata sabato in quanto giornata di silenzio elettorale, dunque domani alle 8 e qualche minuto. Salvo, diciamo così, conseguenze della serata romana, domani sarà l'ultima puntata di Stampa e Vangelo referendaria, diciamo così. Alberto Agus ci ricorda alle 11 l'appuntamento con Atlantide, con la sua trasmissione per Popolo della Famiglia TV. Io sono arrivato alle ore 9, quindi sono già oltre lo slot orario che mi viene concesso dalla Pongiluppi. Sappiamo che a quest'ora va in onda Padre Livio su Radio Maria con la sua lettura dei giornali del giorno. Io vi segnalo, oggi lo ripeto, Gianna Jessen con editoriale di Emanuele Pizzatti sul quotidiano La Croce, come racconto di qualcosa che non trovate sugli altri giornali. Troverete un editorialino che mette insieme le tematiche referendarie che ho citato oggi in questa puntata. Troverete la nostra osservazione sul Prodi convinto a dire sì pubblicamente, cosa significa questo sì, qual è la ragione per questo sì. Il tema dei soldi spesi dal PD lo trovate analizzato molto bene sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Sul tempo vi abbiamo segnalato l'idea che il voto di Prodi possa essere un guaio per Renzi stesso. Intanto lo ripeto, domani alle ore 8 qualche minuto, 7:55 da Valenzesso, poi alle 8 qualche minuto faremo la puntata ultima di Stampa e Vangelo referendum. Il sondaggio, mi chiede Marco Rapetti Arrigoni, ha un 99% di no, quindi grande compattezza il Popolo della Famiglia sul no al referendum. Buona giornata a tutti da Maria Di Nolfi. Noi ci ritroviamo appunto domani per l'ultima puntata referendaria. E fate un mi piace, un condividi per far avere tutte le tematiche di cui abbiamo parlato oggi a tutte le persone. Se stasera dovessi arrivare senza febbre, confermo agli amici del coordinamento romano che ci vediamo alla nostra riunione di coordinamento per il mese di dicembre, e dando così anche lì le indicazioni per l'ultima parte della campagna elettorale. Saluto Massimo Zucchi, saluto Giuseppe De Marzio, saluto Gianni Chessa, saluto Nicola Di Matteo, Silvia Lucchetti e tutti coloro che sono in diretta con noi.